America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, insomma, abbiamo avuto parecchi fatti di cronaca importante, cronaca politica, cronaca commerciale negli ultimi giorni, quindi mi sembra giusto tornare su alcune di queste vicende. L'Egitto, per esempio, ci preoccupa tutti moltissimo, ha un potenziale esplosivo. Seguiremo da vicino l'evoluzione della crisi egiziana, faremo un approfondimento nei prossimi giorni, ma la notizia per me, la notizia di oggi è quello che è successo ieri in realtà, e cioè l'avvio del negoziato commerciale per creare un'area di libero scambio fra Europa e Stati Uniti. Insomma, si tratta davvero di una svolta storica. Ieri a Washington sono cominciati questi negoziati, la delegazione europea, la delegazione americana, ci sono stati 15 sottogruppi, pensate, 15 sottogruppi che in parallelo hanno negoziato per ciascun settore l'impostazione, perché non si sta già negoziando, ma si è semplicemente cercato di dare un'impostazione di tempi, come affrontare le tematiche, in cui si è avviato questo processo negoziale che dovrebbe durare almeno un anno, e soprattutto si è affrontata, come vi dicevo, la metodologia, cosa importante, perché in realtà le questioni commerciali, che possono sembrare così noiose, tecniche, legate a dei numeri, sono in realtà uno degli elementi scatenanti delle più forti passioni, delle più forti proteste. Ecco, ho pensato di fare un passo indietro. Quello che avete ascoltato è la diretta delle proteste del popolo di Seattle. Seattle, quando ci fu un giro di negoziati commerciali, partecipavano 135 paesi membri della WTO che si proponevano di lanciare appunto queste liberalizzazioni commerciali. Era il 13 ottobre del 99, e eravamo poco meno di un anno dalle elezioni presidenziali del 2000, c'era Al Gore. E Al Gore era riuscito a ottenere a Los Angeles un appoggio formale decisivo per la sua candidatura alla presidenza USA dei sindacati americani, e dunque in questo negoziato l'America doveva concedere qualche cosa ai sindacati. Insomma, vi risparmio i dettagli, ma il popolo di Seattle, i No Global, si organizzarono, fecero la loro prima vera grande dimostrazione proprio in quei giorni, e poi da lì abbiamo seguito l'attivismo di questo movimento. I No Global volevano bloccare la liberalizzazione perché la globalizzazione, dicevano, è negativa. La mia posizione è che la globalizzazione è positiva, purché naturalmente sia affrontata nel modo giusto, come sono convinto stiano facendo, abbiano cominciato a fare proprio a Washington ieri, per creare questo enorme nuovo mercato dove non ci saranno tariffe, dove lo scambio dei commerci sarà libero attraverso l'Atlantico. Voglio riproporvi proprio su questo argomento, tariffe per esempio sul salame. Beh, lì il problema era stato risolto già qualche mese fa, ma immaginate questo moltiplicato per 100 prodotti diversi, e voglio riproporvi una conversazione che feci proprio qualche tempo fa, non tanto tempo fa, con Marco Rosi, il presidente amministratore delegato di Parma Cotto, proprio sull'impatto che la liberalizzazione del commercio del salame avrà sui suoi affari. Beh, la notizia è straordinaria, molto importante per il nostro settore. Io credo che sia molto importante per tutto il Made in Italy, e cioè il fatto che i salami, la coppa, la pancetta, cioè i salumi al di sotto di 400 giorni di stagionatura non potessero varcare le frontiere italiane per arrivare negli Stati Uniti, è veramente una cosa che gridava vendetta, perché mai come adesso il Made in Italy alimentare negli Stati Uniti, dei salumi in particolare, fa notizia, fa epoca. Quindi stiamo rivedendo il piano industriale proprio da ieri, perché faremo, dei nostri programmi ci sarà un centro di affettamento, ma certamente la produzione di salumi no, Perché? Perché la facciamo in Italia e la esporteremo negli Stati Uniti. Ecco, la cosa importante dunque è di capire che dietro questi accordi commerciali che riguardano settori, negoziati complicatissimi, ci sono poi delle realtà che appartengono al nostro quotidiano, ci sono dei prodotti singoli, ci sono per esempio i dispositivi dei freni delle auto. Ecco, questo è uno degli argomenti di discussione, perché per esempio le luci dei freni non sono omogenee e quindi creano dei problemi ai produttori, per cui Ford e BMW vogliono imporre degli standard, chiedono che Europa e Stati Uniti abbiano gli stessi standard. Vi faccio un altro esempio, ecco, di questo probabilmente non si andrà a negoziare, ma le spine elettriche, le prese elettriche, come sapete, sono diverse. La presa elettrica in Italia è diversa dalla presa elettrica negli Stati Uniti, come poi quella britannica è diversa sia da quella americana che da quella italiana. Perché? Qual è la radice storica? Perché avendo delle prese diverse tu proteggi l'industria, il settore interno, quando le produzioni elettriche erano ancora nazionali, quindi si costringe il produttore straniero a fare delle cose che siano, diciamo così, adatte a quel particolare mercato. Altri esempi, la FedEx, la conoscete, Federal Express, per esempio preme perché vuole che siano modificate alcune norme che limitano l'utilizzo di certi camion nei centri storici di alcune città, quindi la FedEx fa pressioni sul governo americano perché ottenga delle concessioni in Europa. Invece una cosa trovo divertentissima che chiedono gli americani e della quale i francesi non saranno molto contenti è che i produttori di vino frizzante possono chiamare il loro prodotto champagne. Ecco, noi per esempio non lo chiamiamo, noi lo chiamiamo spumante, diciamo méthode champenois. Ecco, invece in America i vigneti che hanno cominciato le loro produzioni prima del 2006 possono appunto chiamare il loro vino frizzante champagne e vogliono che questa cosa sia codificata e che quindi possano continuare a farlo. Walmart, grande distribuzione, vuole limitare le regole sulle vendite online. E poi, ultimo esempio, sentiamo questa musichetta. Campbell's soup, Campbell's soup, 21 kinds of Campbell's soup, lunch or dinner for breakfast too. Soup every day makes a soup for you. Soup tastes good and it's good for you, once a day, every day at Campbell's. Good! È una campagna pubblicitaria della Campbell Soup. La Campbell Soup fa il brodo, la zuppa in lantina, un simbolo americano al punto che Andy Warhol, il grande artista, ha fatto alcuni dei suoi quadri più famosi proprio con queste immagini, queste lattine a ripetizione di Campbell Soup. Ebbene, cosa chiede la Campbell Soup? Per conto degli allevatori di polli americani, si vuole che sia rivista la norma europea che mette al bando i polli trattati con certi agenti chimici. Ecco, questi sono gli elementi del dibattito. Naturalmente alcuni no global vedono con grande preoccupazione il fatto che possano rilassarsi alcune regole di protezione dell'agricoltura, altri temono relax per esempio sulla privacy, altri sui prodotti finanziari. Insomma, ieri si è cominciato a discutere di tutto. La Francia aveva messo un po' il bastone sulle ruote, le rivelazioni di certe violazioni della privacy americana avevano creato dei problemi, però la cosa importante è che alla fine questa liberalizzazione dovrebbe davvero dare una grossa spinta alla crescita. Vi do due cifre: un aumento dello 0,5% del PIL, cosa che di questi tempi di recessione non può che incentivare a muoversi rapidamente, e poi la dimensione, pensate che l'interscambio USA-Europa è già pari a 646 miliardi di dollari l'anno, la dimensione è enorme perché questi due blocchi economici che si uniscono rappresentano il 50% dell'output mondiale, il 30% dei commerci globali, il 20% degli investimenti diretti. Un centro studi a Londra dice che l'impatto sulla crescita in termini reali sarà di 100 miliardi di dollari all'anno in più. Dunque credo sia importante ascoltare il messaggio di Michael Froman, che è il negoziatore americano, il quale ha detto: bene, questo accordo va fatto subito, va fatto rapidamente, l'idea è di finirlo entro un anno, forse slitterà un po', però ha dato un punto di riferimento, ha detto: per chiudere questo negoziato voglio fare il pieno una volta soltanto.